è la storia in realtà di due attori ebrei russi, Solomon Mikhoels e Benjamin Zuskin, uccisi da Stalin. Loro sono stati i creatori, i grandi interpreti di un teatro straordinario che era il Gozet, il teatro ebraico di Mosca. Stalin li prese di mira, nel 48 uccise in un finto incidente di macchina Mikhoels, rapì a fine di quell'anno Zuskin. E tra l'altro lo rapirono mentre faceva una cura del sonno, si addormentò in una clinica e si svegliò nelle gattabuie della Lublanka mentre lo torturavano. Fu torturato e interrogato per quattro anni, nel 52 fu fucilato. Poi un anno dopo morì Stalin, loro furono dichiarati innocenti di ogni colpa ma non furono mai rivendicati. Questi attori nel 35 crearono un Re Lear che Gordon Craig, quando lo visse, per chi non sa chi è Gordon Craig, è, diciamo, il padre fondatore della scenografia contemporanea, sì, scrisse loro dicendo: voi incarnate il teatro che ho sempre sognato. Ricordiamoci, Gordon Craig teorizzava la super marionetta, la liberazione dal naturalismo, e lui sosteneva che questo era lo spettacolo più straordinario che lui avesse mai visto. Infatti, mentre era a Mosca per un convegno sul teatro shakespeareano, lui stette 10 giorni a Mosca, tornò 7 volte a vederlo. Ed era, ci sono le lettere che lui ha scritto a Mikhoels invitandolo, non gli fu più permesso alla compagnia di uscire dalla Russia e finalmente finì così nel dimenticatoio. Molti degli archivi si salvarono perché due donne delle pulizie, che dovevano bruciare tutto il materiale, tutto l'archivio, lo nascosero sotto le gonne e lo portarono fuori. E quello finì in un piccolo museo sul teatro ebraico di Mosca che c'è oggi a Tel Aviv. La figlia di Mikhoels, di Zuskin, e Alla, che scrisse un libro straordinario che è stato una delle principali fonti su cui ci siamo basati, Memorie su suo padre, lei scrisse questo libro. Lei ancora viva, vive a Tel Aviv. Fu deportata insieme alla madre Eda Berkovskaya, che era attrice, lei faceva Cordelia in quello spettacolo, e quando poterono poi andarono via dalla Russia, che gli aveva ucciso marito e padre e non gli aveva mai nemmeno consegnato o chiesto scusa, semplicemente li lasciarono perdere. Ma perché spaventava tanto questo spettacolo? Che contenuti poteva avere per mettere in guardia in maniera così tremenda quella che è l'attenzione? Questa è una domanda che ci siamo fatti anche noi. Non era in sé lo spettacolo, era il loro modo di recitare, che era assolutamente contrario a questa ipotesi del realismo socialista. Loro erano attori del contesto, di quello che creavano coi corpi, creavano un sottotesto diverso da quello, diciamo. Per cui anche uno spettacolo, diciamo, di stampo sovietico, come poi li si costringeva a fare, come dovettero fare, era sempre pieno di allusioni, di umorismo, di disacrazioni che il regime tollerava poco. Ma non potevano censurarlo perché non era solo nelle parole, era proprio nel montaggio, nei gesti. C'è un dettaglio ancora. Nel 21, quando il teatro è fondato, la prima regia la fanno insieme Granowski, uno dei loro direttori, e la fa Chagall. E quando Marc Chagall propone del teatro che è tutta sua, tutta folle, e Mikhoels lo prende molto sul serio, perché Chagall litigava moltissimo con l'altro direttore. Invece Mikhoels gli dice a un certo punto: voglio imparare a capire quello che lei propone. E crearono un modo di recitare che le testimonianze dicono sembra sempre che gli attori volano. E se tu ti ricordi i quadri di Chagall, il volo, persone, certo, in aria. Sì. E loro hanno creato un modo di lavorare in cui il corpo degli attori era al servizio di questa specie di leggerezza, ed era un teatro popolarissimo. Andavano a vederlo, anche se recitavano in Yiddish, andavano a vederlo tutti, loro davano una specie di sinossi di quello che accadeva e il teatro era sempre pieno di persone entusiaste a vederlo. Certo. Di questo teatro non è rimasta quasi traccia. Antonio Attisani aveva scritto un libro su di loro, adesso non ricordo bene il titolo, Nella vita e nella morte, e lui mi fece conoscere questa storia. Poi lui fece tradurre il libro di Alla Zuskin e una sua allieva e fece un'investigazione che finì in una tesi di laurea che diventò un libro, che è il libro sulla storia di questo Re Lear. Allora, e noi abbiamo preso questa storia, abbiamo creato uno spettacolo a modo nostro. Okay. Ho lavorato per 2 anni con 8 attori tutti usciti dalle scuole, molti dalla Galante Garrone di Bologna, e per 2 anni ci trovavamo una settimana al mese, ognuno a sue spese, io non ho preso un centesimo, loro non hanno pagato niente, e ci siamo riuniti a casa dove ho creato un'isola del teatro nel posto in cui vivo, e ho una sala che ho costruito lì nel fienile, e abbiamo lavorato improvvisando, creando materiali, scrivendo i testi, in un intento mio pedagogico di insegnare la gente a fare da sola, cioè insegnare a essere veramente artisti autonomi.